24. La storia. Prima non avevi tanta voglia di raccontare di te. No, perché mi vergognavo. Perché alla fine, dai, la mia è una storia di tossicodipendenza che è iniziata anche abbastanza presto. Ho provato per la prima volta la cocaina a 13 anni dentro uno spogliatoio di calcio. Sì, perché ho sempre giocato con i ragazzi di 1 o 2 anni più di me. È capitato che me l'ha chiesta la persona giusta al momento giusto e diciamo che ho preferito non scegliere che fare una scelta. Credo che la vita di un uomo salvata sia più preziosa di qualunque egoismo. Mi sentivo fallito come persona, mi sentivo fallito come tossicodipendente ed è stato un momento veramente devastante che grazie appunto al riaprirmi di nuovo le porte da parte di Vincenzo, dove lui, io conservo ancora gelosamente quelle 2 righe dove mi dice: io sono dispostissimo a riprenderti senza problemi, però Piero ricordati che affrontare i problemi significa andare fino in fondo. Se per caso io vorrò scappare, non lasciarmi mai scappare. Io mi trovavo sempre peggio in quell'area di violenza e di controllo. Muccioli mi picchiò a sangue per 2 fiale di Valium. Altro che ceffoni paterni, erano pugni che mi fecero sanguinare e mi lasciarono 2 occhi blu. Muccioli, è tutto vero? No, assolutamente. Il 19 settembre del 95 muore Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità di San Patrignano, un uomo amato e odiato, contestato e osannato. Al centro di denuncio, processi giudiziari, ma di sicuro il protagonista nella strategia della lotta alla tossicodipendenza. Oggi a Mix24 vogliamo ricostruire la storia di Muccioli e della comunità che rappresentò la grande scommessa della sua vita. Un viaggio nella storia di San Patrignano e del suo fondatore a partire dai testimoni, i ragazzi di San Patrignano. Io ricordo bellissimo perché mi ha salvato un figlio. Perciò non posso che essere riconoscente fino al capo. Per me è stato un ritorno a casa e avevo bisogno di ritornare nell'unico posto dove avevo vissuto gli unici momenti sereni della mia vita, e San Patrignano per me era la mia casa e c'è stato sempre in quegli anni un forte richiamo. Che cosa fai adesso? Adesso gestisco la pizzeria di San Patrignano, un luogo dove la mission è sicuramente essere una risorsa per la comunità che attraverso attività come la nostra si garantisce l'autosostentamento, e poi è un luogo dove si fa formazione, i ragazzi imparano un mestiere e poi si reinseriscono. Tutte le mie problematiche e le mie difficoltà mi arrivano da San Patrignano, quindi non dovrei più fare San Patrignano, ma San Patrignano la farei comunque sempre perché rappresenta un dovere. Mi sono chiesto fino a che punto la situazione che mi si determinava nel vedere alla deriva tante vite fosse un fatto emozionale, emotivo, oppure un fatto veramente sentito. Per darmi una risposta ho pensato di aiutarli e ho cercato di focalizzare quali dovessero essere tutte le rinunce che dovevo compiere per poterli aiutare. Noi quando abbiamo avuto il problema l'importante era aggrapparsi a qualcosa, ci siamo aggrappati qui, ci ha salvato, dobbiamo dir bene per tutta la vita, basta, chiuso. Ho fatto solo del bene. Solo del bene. Solo del bene. Solo del bene. Io ho avuto un figlio che per 2 anni e mezzo è uscito, è un campione, invece quando era fuori lo so solo io. Ma quando è che ha deciso di fondare San Patrignano? Quando ho visto la gente morire, cadere e nessuno che si curava della gente che moriva e che cadeva. A fianco di Vincenzo Muccioli nel suo progetto di costruzione della comunità di San Patrignano, fin dall'inizio c'è la moglie, Maria Antonietta Cappelli. È stata una scelta di vita che è stata che io ho condiviso perché sentivo dentro di me che non potevo continuare a passare davanti alle sofferenze degli altri come se non mi riguardassero. Io avevo un figlio, l'ho mandato su. Era un relitto umano, era sfatto da tutte le parti, è uscito un lavoro, si è sposato e quindi è venuto a casa. Prima non sapevamo di avere un figlio, adesso invece abbiamo un figlio. Avete ritrovato? Abbiamo ritrovato il nostro figlio, grazie Vincenzo. Un ragazzo cerco di capire quali siano le motivazioni che lo spingono a venire qua. Se vuole uscire dalla sua situazione di tossicodipendente, se sia disposto ad accettare fino in fondo l'aiuto che viene a cercare, oppure se venga sospinto dai suoi o per dei timori di situazioni che ha nella casa. Io non mi sento un capo carismatico, mi sento un uomo che ha una visione chiara di un problema, che è supportato da dei risultati conseguiti, perché in 4 anni avere 250 ragazzi perfettamente inseriti, tutti con una occupazione da noi ricercata e trovata, avere 600 ragazzi in casa, avere già 4-5 lauree, avere 80 studenti e tutto gratuitamente fatto, io credo che non significa né essere padroni oppure dei visionari. Con queste parole Vincenzo Mucci rispondeva in un'intervista dell'85 alle accuse di essere un despota, un padre padrone, una specie di santone autoritario. Accuse che hanno continuato a pesare sulla sua persona e sulla comunità di San Patrignano, anche se molte testimonianze raccolte negli anni lo smentiscono chiaramente. Mix 24, la storia. Riprendiamo Mix 24, il racconto della storia di San Patrignano che si incrocia con la vita del suo fondatore Vincenzo Muccioli. Un uomo discusso, ma allo stesso tempo difeso da molti di quei ragazzi che nella comunità hanno trovato rifugio e salvezza, una nuova rinascita. In due parole, quali sono le regole? Rispettarsi e supportarsi nella coerenza e nella volontà che un tossicodipendente flette. Tant'è vero che per entrare in alcune comunità devono dare dimostrazione della loro volontà nel rimanere senza bucarsi e anche 3, 4, 5, 6 mesi, un anno nei vari colloqui che devono intraprendere prima di entrare in comunità. Quelli che non riescono a reggere questo periodo trovano asilo in un'altra risposta, la mia, e ovviamente devo supportarli perché arrivino fino in fondo al loro programma, che significa vita. Intanto, all'inizio, chi le ha detto che cosa doveva fare? I ragazzi stessi. Le hanno suggerito le terapie? Certo, ma no, mi hanno suggerito le terapie. Mi hanno detto come poterli affiancare, come poterli supportare. Cioè, mi faccio un esempio breve, concreto, all'inizio. Mi raccomando, se per caso io vorrò scappare, non lasciarmi mai scappare, perché io sono andato in tante comunità prima di venire qui, da tutte dovevo fare un certo periodo prima di entrare in comunità e in questo periodo non bucarmi, non ci sono riuscito, vengo da te perché mi aiuti, se no ho solo la piazza come rimedio. I ragazzi rimangono con la loro identità, contestano quello che c'è da contestare, dicono la loro, non c'è questo trascinamento, non sono ragazzi plagiati. Ma lei non ha mai pensato che i suoi metodi ledono nel profondo, comunque, al di là della volontà dei ragazzi, la dignità dell'uomo? Non credo proprio, credo che la libertà dell'uomo sia lesa soprattutto dalla annullamento dei propri valori e della propria dignità che l'eroina determina, che il prostituirsi determina, che il diventare un pericolo sociale determina. E questa pericolosità non è limitata all'afflitto dalla tossicodipendenza, ma tutto il contesto sociale intorno al quale il tossicodipendente ruota. Ma lei in Dio ci crede? In Dio? Certo ci credo. Ci credo anche in Gesù Cristo. È solo indebolita la mia educazione cattolica, perché proprio da certi cattolici è partita la lotta, cioè da contro chi? San Patrignano. Da chi? Da degli informatori che, come ha detto il Vescovo stesso in occasione della sua visita, l'hanno mal informato su San Patrignano, per campanilismo, per cattive informazioni, per invidia. Io non sto a vedere come, ma è certo. Senta, però che non è un'opera cristiana. Ma che cosa dovrebbe fare subito lo Stato per darvi una mano vera nella lotta contro la tossicodipendenza? Anzitutto fare tesoro delle nostre esperienze, cercare insieme delle leggi adeguate ai tempi, non perché quelle esistenti non sono adeguate, ma vanno interpretate, e non tutti gli uomini hanno quella lucidità, quell'umanità per poterle interpretare. Quindi molte volte le leggi non sono, gli uomini non sono rapportati alle leggi, sono le leggi che sono rapportate agli uomini. Allora c'è il disservizio. Nel settembre del 95, alla morte di Vincenzo Muccioli, molti pensano che l'esperienza di San Patrignano possa finire. In quell'occasione il figlio di Vincenzo, Andrea, prende una decisione definitiva: raccogliere il testimone e continuare il difficile percorso iniziato dal padre, il lavoro con i ragazzi. Ho sempre pensato che la comunità a me non serviva, perché comunque dai, poi l'ho imparato più tardi, questo qui è proprio nella mentalità del cocainomane, convinto che riesce a gestire tutto, che lui non è un tossico perché non si buca, perché non usa l'eroina, perché si fa la doccia, perché va a mangiare fuori. Mia mamma mi butta fuori di casa, io faccio 3 anni in cui praticamente faccio tutte quelle cose che fanno i tossici, rubo, gli scippi, un sacco di cose di cui mi vergogno profondamente. E mi ricordo una volta, a 22 anni, decido di tornare a casa, sento mia madre che piange. Era un pianto strano, era come se quel pianto non avesse mai fine. Era un lamento, una cosa che, cioè, lei mentre respirava piangeva, faceva, cioè, non era seduta sul divano e piangeva, lei praticamente piangeva sicuramente dalla mattina. E lì mi sono reso conto che quel pianto doveva finire. Io dicevo sempre si vive una volta sola, però alla fine ho realizzato che quella volta sola magari conviene viverla al massimo, godendoti ogni attimo, perché ho imparato veramente che le cose quando se ne vanno e non hai avuto la possibilità di godertelo, ti sei rifiutato di godertele, è brutto. Sono stato dentro un anno e adesso un anno sono fuori e rientro. E quanti giorni sono che sei qui? 8 giorni, 8-10 giorni. Però dai. E dopo un anno perché te ne sei andato? Sono sempre stato presuntuoso, non mi sono mai considerato un tossico, quando magari sono stato più tossico di altri. E sono uscito sentendomi sicuro. Dopo 3 mesi ho ricominciato a fame. Nessuno ti fa pesare il fatto che te ne sei andato. Logicamente devi star qua a purgare. Cioè, tanta gente contesta il fatto che ci lasciano qua fuori così. Invece se ci pensiamo è giusto. Perché se bastasse andare e tornare, allora... Cazzo, ogni volta che ti gira vai, fai quello che vuoi, poi torni. Dopo di un albergo diventa. Non è mica un albergo, capito? Invece stai qua, io ti dico che questa qui è l'ultima volta che io entro in comunità, capito? Ma non per il fatto di aspettare, proprio per il fatto che non voglio più ricominciare a farmi. Entro qui, se mi va male, capito? Io spero proprio di no, e torno fuori, ma questa volta mi metto a fare delinquente fino alla fine. Quello che non sono stato capace di fare prima lo faccio adesso e vediamo come va a finire. È l'unica prospettiva che ho. Lei qualche giorno fa ha detto, leggo testualmente anche questa volta: se per volontarietà della permanenza intendono dire che quando un ragazzo che è in comunità e se ne vuole andare, io devo lasciarlo andare, allora non sono d'accordo e chiudo la comunità. Perché? Ci sono due tempi. Se in un primo momento, quando il ragazzo è di fronte alle sue difficoltà, la responsabilizzazione naturalmente gli propone, e vuole andarsene, no, in quel momento io cerco di trattenerlo. perché possa intravedere e toccare con mano la sua possibilità di riuscita. In una seconda fase, quando la presunzione di uno star bene, dopo avere raggiunto un reale star bene, ma lo fa desistere dalle ultime difficoltà che deve superare, e questa presunzione, dicevo, lo spinge fuori a tutti i costi, allora non lo trattengo più e lo mando, perché è importante che faccia questa sua esperienza. Cose che io non voglio credere è che sono debole e volubile quanto sono in realtà. Io vorrei sempre pensare di essere un po' meno di quello che sono, perché insomma è dura da mandare giù, anche perché facendo una brutta vita ci siamo sempre arrangiati. Poi quando cominciamo a cambiare vita sembra che ci siano delle difficoltà insormontabili, e uno che è abituato ad avere quello che vuole si sente proprio tagliato fuori da tutto. Non sei più dove eri prima, ma non sei neanche dove vorresti essere. Mi faccio letteralmente pietà. E allora cosa vuoi che ti dica? Se mi riprendono stavolta darò retta fino in fondo, perché dar retta fino a metà non basta. Quando queste persone non riescono a superare questo periodo, allora ritornano in piazza e, nella convinzione di non riuscirlo a superare, cercano da me forza per arrivare comunque a riscattarsi nel vivere. Praticamente allora che cosa devo fare se non trattenerli? Scusi, ci sono poche persone che riescono a farmi stare zitta, ma lui ha uno sguardo che quando lui ti guarda non vede cosa c'hai addosso, come sei messo, come parli, vede chi c'è dentro di te, e a volte non lo sai neanche tu se hai qualcosa di buono. Molti di noi non ci credono, io per esempio non ci credevo per niente di avere niente di buono. Lui invece vede subito se c'è qualcosa di buono in una persona e dopo si scervella per tirarlo fuori. Da quanto tempo aspetti per entrare a San Patrignano? È stato abbastanza fortunato, un paio di mesi. E come avviene l'accettazione? Beh, devi scrivere lettere, telefonare, devi farti conoscere. E poi quando ti manderanno a chiamare vieni al colloquio. Questo è il tuo primo colloquio qui? No, io qui oggi il colloquio l'ho già fatto, oggi entro. Quanto tempo fa l'hai fatto il colloquio? 10 giorni fa. Mm-hmm. Nemmeno. 8 giorni, martedì scorso. Hai fiducia nei metodi di Muccioli? Penso che per me siano quelli giusti. Perché ho visto altri metodi, poi anche la comunità era dove avevo tutti i miei intrallazzi, tutte le mie storie. Cioè, quando uno in carenza sta male, non dico che ci vogliono le botte, però se non tieni duro quei 3-4 giorni, 10, cos'è? Se non c'è qualcuno che ti tiene duro, che scappi, ci ricadi di nuovo. Senta, signor Mucci, le leggo alcuni brani di una lettera scritta al manifesto da Sonia Cologni, una ragazza che è stata a San Patrignano. Dice: di giorno lavori, ma il lavoro che devi fare lo decidono loro. La sera guardi la TV, rapporti zero. Io mi trovavo sempre peggio in quell'area di violenza e di controllo. Muccioli mi picchiò a sangue per 2 fiale di Valium. Altro che ceffoni paterni, erano pugni che mi fecero sanguinare e mi lasciarono 2 occhi blu. Muccioli, è tutto vero? Eh? No, assolutamente. È vero del Valium. È vero che lì dentro né Valium né altre droghe, perché non c'era solo Valium. Quando lei è ritornata dopo essere scappata, è ritornata e si è andata a fare la provvista e supplicava per essere presa, e io gli ho trovato queste cose, non le posso assolutamente permettere. E alle sue richieste di essere nuovamente immessa nella comunità, mentre io mi predisponevo con tutta l'apertura possibile e il calore possibile ad accoglierla, lei nascondeva queste cose e le offriva agli altri. Allora le ho dato un ceffone. Senti. Ma vede, di sogni è pieno il mondo. Ecco il risvolto pericoloso della sentenza. Ne sorgeranno tante altre che arriveranno, e attraverso una denuncia si cercheranno di accaparrare una libertà di drogarsi. Ma lei, gli spacciatori mi hanno mandato in carcere. Ma a lei il potere di agire così chi glielo dà? La legittimazione dove la sente lei? Dai ragazzi stessi che me lo chiedono.

a mio avviso, capire la sorte degli altri, ecco, per esempio interessarsi realmente, cioè chiarire che sono dei nostri figli che hanno bisogno soprattutto di amore. Ecco, l'esempio dei genitori conta molto. Ecco, appunto, a proposito dell'esempio dei genitori, lei però ha anche detto: non delegate altri figli a medici, a psicologi, a ospedali, a cliniche, a stregoni, a agopunturisti. Solo voi avete l'antidoto, cioè l'amore. Ecco, perché allora lei ha delegato Muccioli nel suo caso? Ho delegato Muccioli perché Muccioli è un fenomeno a parte. Muccioli è una specie di grande nave nella quale tutti sono sfuggiti a un naufragio e c'è un clima a San Patrignano, e se qualcuno di voi ci andrà, io spero che qualcuno di importante ci vada, so che hanno scritto anche una lettera al Papa, sarebbe bellissimo se ci andasse un giorno. C'è il clima di una grande nave che è sfuggita a un naufragio e c'è un rapporto di grande gioia, c'è un gruppo di persone senza rapporto gerarchico, nelle differenze gerarchiche, che è sfuggito alla morte, cioè che hanno guadagnato una grande cosa, la vita. Quindi quello che conta in Muccioli è che la somma dell'amore di tutte le persone della comunità, quindi in che misura la comunità è più forte della famiglia, perché è una sinergia, è la somma di tutto l'amore di cui sono capaci 540 persone che sono sfuggite alla morte. Una personalità forte, carismatica, quella di Vincenzo Muccioli. Ecco perché nel 95 alla sua morte molti pensavano che sarebbe finito tutto. Si trattava di raccogliere infatti un'eredità pesante, molto pesante. L'unico candidato è il figlio Andrea. Senta, ma che cosa le ha dato la forza di raccogliere quell'eredità che era un'eredità veramente da far tremare le vene ai polsi? La profonda umanità e la bellezza di tutto quello che io ho vissuto nella mia vita a San Patrignano. Decidere di ereditare quella cosa è stata una decisione presa insieme a suo padre? No, nel corso della malattia, del periodo della malattia, oppure ne avete parlato oppure no? Le svelerò un piccolo segreto. Io, come tanti altri, ero convinto seriamente che San Patrignano non sarebbe potuto andare avanti senza mio padre. E poi mi sono trovato, mio malgrado, a dover essere non l'erede, perché io non mi sono mai considerato l'erede di mio padre. Continuatore. Ma neanche il continuatore. Uno di quelli, uno dei suoi figli, uno di dei semi che lui aveva lasciato e che aveva fatto in modo che crescessero. Ma con suo padre non ne ha parlato mai prima di morire, cioè in quei giorni drammatici? Non ne ho mai parlato, ho parlato della mia scelta qualche anno prima che mio padre morisse, quando la mia scelta è stata quella di vivere, di restare lì, insomma, di rimanere a San Patrignano, e ho saputo solo qualche anno più tardi, attraverso uno dei ragazzi che con me hanno scelto di portare avanti questa missione, che mio padre pensava che noi figli ce l'avreste fatta, insomma, potevate farlo. Avremmo potuto, ecco, farcela. Ma chi le è stato più vicino, un po' l'ha detto, in quel periodo? Io ho cercato di essere vicino alle persone che potevano avere bisogno di me, così come credo che tutti quelli che con me hanno continuato a portare avanti questo testimone d'umanità mi siano stati vicini. Ecco, ma suo padre ha avuto tanti nemici. Lei ha sentito dell'ostilità quando ha deciso di continuare? Quell'ostilità l'ha ereditata oppure no? L'ostilità c'è sempre stata, certamente se uno doveva fare i conti con l'ostilità o aver paura dell'ostilità avrebbe continuato. Non solo l'ho sentita, non solo l'ho vissuta sulla mia pelle, su quella di tutta la comunità e di mio padre in tutti questi anni e in particolare tra il 93 e il 95, ma questa ostilità era talmente forte e cattiva e violenta che è andata ben oltre la morte stessa di mio padre. Il giorno, la settimana dopo che mio padre è morto, i magistrati di Rimini hanno chiesto di avere la cartella clinica della morte. Si parlava di resumazione, del cadavere, non so, che francamente va al di là dell'umana comprensione. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Per 20 anni Andrea Muccioli ha gestito la comunità di San Patrignano, un'esperienza che si è conclusa nel 2011 quando il testimone è passato a un gruppo di garanti tra cui Gianmarco e Letizia Moratti. Ascoltiamo dalle parole Gianmarco Moratti chi era per lui Vincenzo Muccioli. Ma Vincenzo Muccioli è il mio miglior amico, quindi non è facile per me dare giudizio su un amico così. Ma lei spesso parla del genio di Muccioli, in che senso lo considera un genio? Ognuno sposa una causa nella vita e la porta avanti in un determinato modo. Muccioli, come ha affrontato San Patrignano, come ha affrontato questi giovani e come ha portato avanti queste cose, questa sua umanità, questo suo porgersi al prossimo, l'ha convinto. Hanno qualcosa di geniale. Senta, però i metodi di Muccioli sono stati spesso molto criticati anche da chi ne riconosceva la qualità dell'impegno. Ecco, lei cosa risponde in una battuta a chi critica questi metodi? Vede, c'è molta gente che è costretta a giustificare il loro non far niente con il pietismo e con questa specie di demenziale libertarismo. Io quando allevo i miei figli non li allevo dandogli tutte vinte e portandogli un regalo al giorno, e c'è dei momenti in cui devo essere duri. Questi ragazzi a cui Vincenzo ha aperto le porte di casa sua e li ha accolti come figli, e non sono molto facili, non sempre li si può andare incontro col bacino o raccontandogli le storielle, bisogna anche avere la mano ferma. Ecco, fortunatamente Vincenzo ha la mano ferma. Mano ferma, ma anche tragedie, perché so che sono capitate due tragedie a San Patrignano, due suicidi. Sì, è stato... Hanno a che fare con i metodi o no? Guardi, le devo dare una risposta, io non sarei all'altezza di dare una risposta, le do una risposta che mi ha dato un ragazzo che si chiama Tommy, che si è sposato a San Patrignano, che ha due figli, che ha 30 anni, che ha fatto circa 10 anni di tossicodipendenza, e che martedì mattina, prima che io tornassi a Milano, mi ha detto: vedi Gianmarco, quando noi ci facciamo il primo buco, sappiamo che andiamo verso la morte. Non è strano che questi due siano morti, è strano che noi mille siamo vivi. Guarda, se io non avessi avuto la fortuna di trovare Vincenzo, non sarei certamente qui a parlarti. Dal 78, anno della nascita della comunità di San Patrignano, a oggi sono passati 36 anni. 25.000 le persone che in questi anni sono state accolte gratuitamente all'interno della comunità. 300 le persone tra dipendenti, operatori esterni e volontari che ogni giorno mettono in moto la macchina. 260 gli ettari di estensione, numeri che rendono San Patrignano la più grande comunità d'Europa. San Patrignano accoglie oggi 1.400 ragazzi con problemi di tossicodipendenza ed emarginazione. Non chiede rette alle famiglie e rinuncia a quelle statali previste per ognuno dei ragazzi in percorso. Oltre alle case, ha una struttura per accogliere mamme tossicodipendenti con i loro bambini. Poi l'asilo, un centro minori maschile e uno femminile. Al centro della comunità, la grande sala da pranzo, ha una struttura coordinata in grado di servire oltre 2.500 pasti al giorno e di sfornare 8 quintali di pane al giorno. L'80% degli alimenti viene prodotto all'interno della comunità. I ragazzi sono impiegati quotidianamente in laboratori artigiani. Ci sono più di 50 reparti dislocati su tutto il territorio della comunità, dove, oltre a vivere in gruppo, imparando ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni, apprendono una professione. Fra queste attività la norcineria, la falegnameria, la cantina, le grafiche, la lavorazione del cuoio, il forno e altre decine di laboratori artigiani. Attività che permettono a San Patrignano di reperire la metà delle risorse di cui la comunità necessita, circa 15 dei 30 milioni totali, mentre il restante è garantito da donazioni di privati. Oltre alla formazione lavorativa c'è anche quella scolastica. I ragazzi possono infatti riprendere a studiare recuperando gli anni persi. Il centro medico della comunità di San Patrignano, aperto nel 94 e recentemente accreditato dalla regione, offre un poliambulatorio e un reparto per la cura delle malattie infettive dell'AIDS. La ricerca sulle malattie correlate alla tossicodipendenza si avvale della più ampia banca dati del mondo, con oltre 11.000 cartelle cliniche in un unico database. Tra chi termina il programma, circa il 75% dei ragazzi, la percentuale di guarigione e di reinserimento nella società è attorno al 72%. Da sempre la comunità, accanto al recupero, porta avanti un'attività di prevenzione. Col progetto We Free incontra ogni anno oltre 40.000 studenti di tutta Italia, sia in comunità che nelle loro scuole. Dall'ottobre del 97 San Patrignano è stata accreditata presso l'ONU come ente consultivo sulle problematiche sociali. Con l'aiuto di finanziamenti esterni, San Patrignano è diventata oggi una comunità che si autosostiene e che produce numerosi beni, come il vino. 260 ettari di terreno, 110 coltivate a vigna, con una produzione di 500.000 bottiglie l'anno e 10 etichette diverse. A capo del comparto del vino, Pietro Prenna. Sentiamolo intervistato da Marina Milone.